Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci caro Oscar, sono le 8 e 20 minuti ed è lunedì. Ed è lunedì, è inizio della settimana, è lunedì e tu inizi come sempre, come se fosse chissà che tragedia. Ma guarda che la domenica è peggio, vedo, alle 5, per chi ti fa certe cose mi pare che la domenica sia peggio. Non mi toccare ma vedi, calcio, lascia perdere che ieri... Hai voluto tu. Ho assistito a un furto con scasso a Firenze. Figurati, io ieri non mi voglio esaltare, ma insomma il Torino ha ben fatto. Ma però non mi esalto. Ha fatto una grande partita. Una grande partita, ma non mi esalto, appunto. Allora, oggi auguri che si chiama Cosma e Damiano. Io quando ero piccolo dicevo, ma questo nome Cosma e Damiano? Invece c'è tutta una storia dietro, perché pensa che sono i santi che sono patroni dei medici. Solo che un tempo, infatti quando li decapitavano, come capita Cosma e Damiano, questi due medici avevano questa particolarità, erano medici anargiri, cosa vuol dire? In greco sono quelli che non si fanno pagare, cioè loro erano come medici senza frontiere dell'epoca e quindi sono i patroni proprio di quel tipo di medici. E io devo dire che da quando l'ho capito da ragazzino la cosa mi colpì tantissimo e penso che siano due martiri tra i migliori che si possano immaginare, perché prestare... Sì. Se pensate, adesso non so quanti ieri abbiano letto Domenico Quirico, quello che ha scritto di ciò che sta capitando ai bambini, non solo ad Aleppo, ce ne occupiamo un po' sui giornali, nell'OIM non ce ne occupiamo per niente. Ieri c'era un pezzo di Domenico Quirico che, come sempre, diciamo qui, io e Alessandro, a me ha fatto piangere ieri, e quindi viva i medici che fanno queste cose qua in giro per il mondo rischiando la vita, perché ci sono pezzi interi del mondo in cui quello che capita ai bambini noi non ne sappiamo nulla, non ce ne frega nulla. Niente. Vabbè, al di là di questo, oggi nasceva Enzo Berzot nel 1927 e anche Salvatore Accardo. E pensa che stasera, l'hai già annunciato nella segna stampa, c'è il grande scontro televisivo, il faccia a faccia tra Trump e Hillary. Sì. Ma perché? Perché nel 1960, per la prima volta in questo giorno, ci fu il primo faccia a faccia nella storia delle presidenziali americane. Quindi lo fanno come ricorrenza. Kennedy contro Nixon. Non saprei dire, avrei delle difficoltà a dire sia che Hillary Clinton fa la parte di Kennedy dell'epoca e no, sia che Trump sia Nixon. No. Mi sembrano altezze rispetto alle quali loro sono un pochino come più. Come dicono tutti, sono i due presidenti che hanno il minor gradimento degli americani negli ultimi anni. No, ma questo da sondaggi. Nessuno dei opinioni. Due è molto amato. Certo, però se fosse stato Jennifer Flowers, che poi alla fine Trump è tornato indietro, pensa se c'era Jennifer Flowers, non oso immaginare. Sì. Perché? Esatto. Comunque, Oscar, noi oggi parleremo un po' di sindacati. Ci ha incuriosito come punto di partenza questa crociera sulla Costa Favolosa. Favolosa? Si chiamava così. Si chiama così. Costa Favolosa di alcuni della UIL che ora sono sotto processo. Cioè segretario ex e l'attuale. Sì. Angeletti e Barbagallo, non solo loro due, sono sotto processo anche con altri. Sono andati in questa crociera. L'accusa è appropriazione indebita, ma insomma faremo un po' di dibattito. La crociera nei mari del nord che serviva tra virgolette per raffreddare il clima. Lo ha dichiarato lui ieri. Sì, esatto. Barbagallo si dichiarando: ho fatto una grande minchiata, doppia minchiata. Però insomma, quello che è successo in Svizzera, vogliamo anche un po' parlarne. Come no? Il numero di telefono 800240024. Allora precisiamo. In Canton Ticino è vero, hanno detto no, prima noi dei frontalieri, cioè prima da trovare il lavoro per gli svizzeri. Precisiamo, non cambia nulla al momento, esatto. Non cambia nulla. È un classico referendum di quelli che servono per eccitare la gente senza individuare un punto concreto. Perché su queste tematiche del lavoro è il governo centrale che deve stabilire e non certo un referendum di un cantone. Quindi però, tradotto, quelli dell'UDC, cioè quelli locali, nazionalisti UDC, fanno voti senza sporcarsi le mani, perché mica devono dire in concreto cosa si fa. Però Oscar, è un segnale. Come no? Si racconta di come sia un segnale. Ci sono 62.000 frontalieri. che ogni giorno dall'Italia vanno in Canton Ticino. Il segnale è non vi vogliamo, no, vogliamo, secondo la maggior del parte del resto coerente al fatto ticinesi. Che ai valachi svizzeri ci stanno restituendo migliaia di profughi che vengono reimpacchettati e riconsegnati all'Italia, quindi più o meno, sia pur su terreni diversi, ma nell'ambito dello stesso capitolo, ecco, è la faccenda. Però Oscar giustamente è stato colpito da un altro referendum che c'è stato ieri. Di cui naturalmente i giornali italiani non si occupano né per dritto né per rovescio, perché c'erano, come sempre, nelle numerose giornate annuali in cui gli svizzeri votano, perché la Svizzera è un grandissimo paese, è coerente col fatto che si può fare in paesi di non troppe decine di milioni di abitanti, quindi loro sono piccoli, se lo possono permettere. Però è una democrazia dal basso, quindi si vota spessissimo dal basso su un mucchio di questioni. E ieri, oltre a alcuni referendum cantone per cantone, come questo in Ticino contro i frontalieri, ce n'erano tre nazionali. Uno di questi nazionali proponeva: volete voi l'aumento delle pensioni del 10% in più? Pensa in Italia. In Italia, sì! Cioè, esatto, attenzione signore, pensate questo voto. Oggi, adesso, volete l'aumento delle pensioni, esatto, con referendum popolare. Del 10%. Del 10%. Ecco, non oso immaginare quale sarebbe la percentuale del sì in Italia, tra il 99.9% e in 100%. Svizzera? Ha vinto il no. Pensate, ha vinto no con il 38%? Ha vinto no, perché sennò paese, siccome votano, molti dicono in Italia, non bisogna far votare la gente sulle questioni fiscali, non c'è scritto in Costituzione che non si può fare, perché prevarrebbe il populismo. In Svizzera, a furia di votare sui soldi della gente, come vedi, prevale anche la responsabilità. Però, particolarità, il no ha vinto grazie al voto prevalente del no nei cantoni del nord, quelli di lingua tedesca, là, mentre in quelli latini, tipo naturalmente Canton Ticino, ha vinto il sì. Vuole sempre la Germania, l'Europa, sempre la sempre questi rigore, infatti, questa austerità. Anche in Svizzera tedesca, ci sono i latini allegrini e invece i nordici un po' più austeri, rigorosi, riciti. Però sta di fatto che su questo referendum ai giornali italiani fotte niente, cioè proprio zero. Ma è chiaro che con la questione degli immigrati oggi, per esempio, mi ha molto colpita anche l'apertura di Repubblica, il sondaggio di Info Diamanti. L'83% degli italiani in qualche modo vorrebbe le frontiere, vorrebbe ripristinare dei controlli, vorrebbe un'Europa più chiusa rispetto a un'Europa così più aperta. Ma io non so se si tratta di Europa, io ti faccio riflettere, i giornali su questo. Aspetta, perché questo sondaggio dice che gli italiani vogliono le frontiere nostre chiuse da noi. Non è più Europa questo. Vabbè, questo è il ritorno all'autarchia, agli stati nazionali. No. Un'Europa perché chiusa, nel senso non un accesso all'Europa anche da parte dell'Italia, così. Ma così qui io vedo qui che ogni paese un po' riccio, inizia. Ogni paese, l'opinione pubblica prevalente oramai pensa a se stessa. Cioè si torna a pensare agli stati come monadi. Quando i giornali scrivono: ah, ci vorrebbe più Europa, mi chiedo a nome di chi stiano parlando. Questa maggioranza di questi sondaggi è la stessa che è diventata maggioranza contro l'euro, Brexit, contro l'Europa, eccetera, eccetera. Cioè l'opinione pubblica viene pettinata da politici e da media e dai dibattiti sui social, da chi predica in realtà un ritorno agli anni 30, cioè a ogni Stato contro l'altro, politiche di difesa con i militari alle frontiere, altro che Europa federale. L'Europa federale esiste nella testa di qualcuno. Sono sondaggi che ogni giorno mettono il dito nella piaga di questa Europa di cui si parla, l'Europa, ma poi quando si va a sentire il popolo, sempre che il popolo abbia ancora un senso sentirlo. Beh, certo che lo dico con io lo sentirei sui referendum, lo dico mentre con i miei amici di un tempo mi dicono: ah, sei diventato un demagogo, la gente è meglio non farla votare. A furia di dare questo messaggio, la gente poi giustamente alla rivolta contro l'elite, perché a furia di considerare il tuo voto non vale niente perché sei un irresponsabile, ecco qua, oppure a furia di assumere decisioni come quella astutamente diramata nel fine settimana, così i giornali hanno fatto meno scandalo, ma io ci voglio tornare sopra. Alessandro, tu hai visto cosa hanno deciso la Camera dei Deputati? Che non si può riprendere il giornalista che dorme o gioca in aula, il deputato da parte dei giornalisti non si può riprendere, cari ascoltatori, perché lei è il prestigio delle istituzioni, capite? Cioè questi poi sono gli stessi che vi dicono che useranno il pugno duro contro gli assenteisti della pubblica amministrazione, però non si può fare una fotografia dalla tribuna stampa dall'alto dell'aula se c'è un deputato che vede il film porno, che gioca alle scommesse sul tablet, oppure che dorme, perché lei del prestigio delle istituzioni, lei del prestigio delle istituzioni, ecco, una roba simile. Il solo fatto che l'abbiano approvata alla Camera dei Deputati dà l'idea che bisogna dovrebbe prendere quello che l'ha approvata, non fargli niente, non togliergli un capello, ma costringerlo per 48 ore di seguito, senza farlo dormire, alla lettura delle dichiarazioni dei redditi di tutti i contribuenti italiani e quanto pagano. Così, senza farlo dormire. Se si addormenta, pizzichetto, no, tu li ascolti i soldi in base ai quali stai dicendo che il parlamentare non si può riprendere. Allora, i nostri ascoltatori, non ho capito perché questo ci scrive 62.000 ladri in Ticino, cioè secondo te i frontalieri, caro ascoltatore, sono ladri? Non ho capito perché, vanno a lavorare. Ma la questione lo sai, no? Che è stato detto da parte di... Rubano il posto? No, soprattutto, siccome... Guadagnano di più? Siccome le associazioni degli imprenditori sono le prime a dire, no, guardate che in realtà accettano lavori... ai ticinesi di lunga nascita non interessano più, perché in piccolo è la stessa storia degli immigrati in Italia, no? Per esempio chi lavora nelle vigilanze, nelle sicurezze, sono svolti italiani, ma l'accusa è abbassano i salari medi per la loro disponibilità a lavorare per un salario più basso. È uno dei motivi per cui è stato fatto questo referendum per mandarle. Comunque ci chiama Mario da Rimini invece. Buongiorno Mario, invece nel senso che voglio dire, buongiorno, ci spostiamo dalla Svizzera. Mario, buongiorno. Salve. Dica. Sì, no, volevo mettervi al corrente che adesso questa mattina c'è molto scalpore per questa notizia proveniente dalla Svizzera, ma qui a San Marino per i lavoratori frontalieri questa situazione è presente da moltissimo tempo. Tant'è che in Repubblica c'è una norma per cui un'azienda sammarinese che ha al suo interno lavoratori sammarinesi e lavoratori frontalieri, nel caso in cui sia in una situazione di crisi, quindi debba attingere agli ammortizzatori sociali, prima di fare questa operazione deve liberarsi di tutti i lavoratori frontalieri. Lei ne parla perché conosce il tema? Come no, lo conosco bene, perché ci sono in mezzo anch'io ovviamente. Ah, cioè, è uno che parte dall'Italia tutti i giorni, fa questo lungo viaggio e va a San Marino. Esattamente, extraeuropeo, tra l'altro. Però la cosa interessante è che il paese, la Repubblica, ha ambizioni anche di integrazione con l'Europa, per cui partecipa al Consiglio d'Europa, organismi di questo tipo, e poi al suo interno ha una normativa di questo tipo qua che è fortemente discriminante. Però siccome la Repubblica è piccola, nessuno se ne interessa, però se si va a vedere i numeri, la crisi economica degli ultimi anni qua in prima battuta l'hanno pagata i lavoratori frontalieri con questo sistema. Ecco, però non lo conosce nessuno. No, ma è chiaro, questa è la sua analisi, Mario, e la ringraziamo. C'è anche Federico che, riportando la questione sulla Svizzera, ci scrive il paradosso, no, della Svizzera. Non vogliono immigrati, ma ci trattano come immigrati. Beh, insomma, un po' lo siamo, dal punto di vista, siamo stranieri, ecco, per i ticinesi. Non dimentichiamocelo, Federico, però... Non ci vogliono. C'è da dire che però ha votato Oscar il 45% degli aventi diritto. Quindi, sì, però si sa, lì il referendum non c'è come in Italia, che bisogna raggiungere il 50% per la validità. E il 58% ha detto sì a questo referendum. Per cui non è che si può dire la maggior parte dei cittadini del Canton Ticino, ma lì se non vai a votare hai torto. Ecco. Ah no, certo. Non è che... Tra l'altro anche questa mi sembra una buona regola. Una buona regola, perché scusate, a quel punto si fa senza questa cosa dei tetti su cui si gioca, basta dire alla gente non andate a votare e si annulla tutto. I tetti non sono mica una garanzia democratica, perdonatemi, non vedo perché andare a votare è a propria volta la prima espressione dell'interesse o meno, esatto, a partecipare a una scelta politica. Se ti interessa voti, se però no, questa è la mia opinione. Ci chiama Mauro da Lugano, sai che ci ascoltano anche molto da Lugano. Mauro, si dichiari subito, è un abusivo oppure no? Buongiorno. Mauro, buongiorno. Buongiorno, no, sono un frontaliere, sono anche responsabile di un'azienda, quindi sì. Ah, ci dica. Com'è la situazione stamattina? Non è cambiato nulla, intanto chiariamo. No, non cambia nulla, perché in realtà è semplicemente una consultazione, però dà un po' il polso della situazione che c'è qui in Ticino. Ma la questione è questa: gli italiani sono passati oggettivamente da 35.000 a 62.000 in 6 anni, a partire dalla crisi del 2008 sono rimaste tante persone senza lavoro in Italia, qui province di confine sono scappate qui. E in effetti hanno subito anche diverse situazioni un po' particolari, dumping salariale, perché i cinesi non hanno questo stipendio, quindi in effetti le problematiche ci sono state. Aziende che pagavano 3.000 franchi per un lavoratore, ne pagavano 2.000 per un italiano. Quindi hanno abbassato, c'è stato questo abbassamento dei salari che ai cinesi dà un po' fastidio. Ecco. Dà un po' fastidio, anche perché loro si sono ritrovati un po' a dover guardare verso il basso a livello salariale, ma il costo della vita qui in Svizzera oggettivamente è quasi il doppio di quello italiano, quindi le tensioni ci sono e sono giustificate. La situazione italiana è una situazione drammatica, anche perché in effetti nelle province come nel resto d'Italia la crisi è morso e ha portato via un sacco di posti di lavoro, e il paradosso che stanno per vivere i frontalieri adesso, come diceva anche Sebastiani, è quello di doversi confrontare a breve, nel prossimo anno, anno e mezzo, con la riforma varata dal governo Renzi da Padova, anche sì. In realtà è una responsabilità del tutto italiana, che è quella di portare gli italiani che lavorano in Svizzera, quindi frontalieri, quindi non residenti, in Svizzera, a dover pagare la doppia imposizione. Quindi si vedranno decurtati di una percentuale piuttosto alta ulteriore di salario, e quindi in effetti saranno stretti nella morsa dell'essere non desiderati, e in più anche sovrappassati. Insomma, Mauro ci spiega che la situazione anche in previsione potrebbe essere ancora più complicata. Ma Mauro, secondo me, va particolarmente ringraziato, perché per esempio Mauro solleva un problema che la totalità dei giornali italiani che oggi scrivono sul tema ignora, mentre invece è una delle questioni centrali sia per i rapporti tra Italia e Confederazione, perché è ovvio che la doppia imposizione viola una serie di trattati internazionali, ma anche il buon senso, e quindi questa è, diventerà la questione con cui Roma, il governo di Roma, chiunque sia il governo, dovrà intervenire sul post referendum, sperando che lo faccia per tutelare i poveri trasfrontalieri italiani e non per mazziarli sia di qua che di là. Però grazie Mauro, perché ha sollevato un tema che oggi la stampa italiana dimentica. Sì. Allora, tra poco invece, dopo la pubblicità, mentre continueremo questo tema, chiamateci all'800 24 00 24 se avete qualcosa che volete dirci, ma avremo ospiti Giuliano Cazzola, ex sindacalista, Giuseppe Ayala, ex magistrato del pool, è la giudice istruttore del grande processo Falcone contro la mafia. È chiaro, perché parliamo di questa vicenda del sindacato in crociera sulla Costa Favolosa, e per raffreddare gli animi, e vedremo se possono essere perseguiti o meno questi due, perché c'è chi dice di no. Sì, esatto, tra poco. State ascoltando un programma offerto da centrosoftware.com, il miglior ERP per il successo della tua impresa. Allora, caro Oscar, siamo qui alle 8.40 minuti, Siamo qui alle 8.40 minuti, nel paese in cui il Presidente del Consiglio nomina consiglieri di Stato violando i termini minimi di legge necessari per la nomina. Sì, questa vicenda di Antonella Manzioni, beh, il Presidente del Consiglio, Palazzo Chigi, insomma, ha proposto... Come potrei pensare che la decisione l'ha assunta qualcun altro, non lui a Palazzo Chigi, visto che è la sua diretta collaboratrice. Antonella Manzioni, che è stata proposta tra i magistrati per il Consiglio di Stato, solo che non ha 55 anni, che è il limite minimo, ne ha 53. Ma cosa vuoi che sia? La legge per noi sudditi, mica per il potere. Ah, eccolo là, eccolo. Ma, scusami, allora, a me sembrano piccoli segnali molto significativi. Adesso qualcuno dirà... Oggi ragazzi, Sergio Rizzo, infatti, come le volete, scrive sul Corriere. Però, quando si fanno le nomine violando i termini di legge, che ne so, la RAI, succede qualcosa, visto che 20 su 21 nomine violano le norme anticorruzione dell'ANAC? Secondo te sarebbe successa la stessa cosa, cioè niente, se l'avesse fatto un governo di destra o le 5 Stelle? Io non credo, però amen. Che bisogna fare. Io invece temo che in passato l'hanno fatto tutti i governi. Per carità, io sono d'accordo con te, e a furia che lo fanno tutti, come vedi, non c'è più reazione. Che dire lo fanno tutti non vuol dire giustificarlo. No, ma poi non è vero che tutti fanno le stesse cose, è vero che sono atteggiamenti diffusi, però quando si arriva a dire io nomino un consigliere di Stato, una mia stretta collaboratrice, e me ne impipo di violare i minimi di legge di età anagrafica necessaria, non lo so, di cos'altro abbiamo bisogno per capire che viviamo in un paese singolare? No, singolare non basta per dirlo, un paese in cui tutto va per storto, dai, è così. Allora, la Will è una di quelle cose che ti ha colpito, no? Perché questa vecchia crociera, vecchia nel senso che affonda negli anni, di qualche anno fa, si è scoperto, era il 2010, quindi parliamo di 6 anni fa, e c'è stata questa crociera di alcuni esponenti della Will, l'allora segretario Angeletti, l'attuale Barbagallo, sono andati nel mare del nord per stemperare il clima. Fiordi, Norvegia. Esatto, sulla Costa Favolosa, solo che ora devono rispondere a un'accusa di appropriazione indebita di denaro. Potevano andare sulla Costa Concordia se volevano far trattare per il sindacato. Dovevano trattare Oscar di vicende interne, di dissensi, perché poi hanno spiegato che era perché quelli dei trasporti volevano lo sciopero generale, mentre la segreteria nazionale no. no, Costa Concordia, l'ideale per fare accordo sindacale. Va bene, dai. Che cosa succede? Appropriazione indebita, questa è l'accusa. Tra l'altro ieri c'è stata un'intervista spettacolare sul Fatto Quotidiano di Carmelo Barbagallo, attuale segretario, che dice: ho fatto una minchiata. Sì, effettivamente, eravamo lì sulla costa. Poi dice: soffrivo di mal di mare. Soffrivo di pensare che io soffro di mal di mare. Mia moglie non usciva dalla cabina. Sì. Perché doveva capitare a me? Ma come perché doveva capitare a me? Dice: ma guardate, se io dopo una vita sindacale devo rispondere di questa minchiata che ho fatto, no? Però questa... E quindi era in croce della sua insaputa anche lui? Questo... No, no, no, era sua saputissima, però si è un po' dissociato da questa cosa. Noi abbiamo convocato Giuliano Cazzola, che è un ex sindacalista, oltre che politico, parlamentare, non attualmente. Giuliano Cazzola, buongiorno e bentrovato. Buongiorno a lei, ascoltatori, e buongiorno anche a Giannino. Ovviamente. Con noi c'è un magistrato importante che ha fatto la storia della magistratura in Italia, Giuseppe Ayala. Buongiorno, buongiorno dottor Ayala e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Che ne ha scritto sull'Huffington Post in maniera... intanto a dire: tranquillizzatevi tutti cari italiani, non succederà nulla dal punto di vista penale, mi sembra, la traduco così dottor Ayala? Sì, ma... sì, è corretto, cioè che senso nulla? Il processo è già prescritto? Sì, noi abbiamo questa prescrizione che tra l'altro, come molti ricorderanno, è stata, i cui termini sono stati accorciati con la famosa legge che si chiama ex Cirielli. Perché? Perché Cirielli, che era stato il presentatore di questo disegno di legge, quando inserirono il governo di centrodestra, parlo a maggioranza di centrodestra, inserì norme che intervenivano sulla prescrizione abbreviandola, disconobbe il suo disegno di legge, proprio perché riteneva che queste norme non c'erano in terra. Però ciò non toglie che diventa ex Cirielli, ma viene approvato lo stesso. Morale della favola. Qui si combinano due cose in questa vicenda delle crociere, che sono due. Lei ha accennato a come sono state giustificate, cioè erano crociere in cui si partiva, i dirigenti sindacali, a cui va per principio tutto il mio rispetto, per carità, però partono con le consorti su due navi di grande lusso due volte per motivi di lavoro, cioè per confrontarsi su alcune questioni molto importanti che riguardavano il rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione e non ricordo bene che cos'altro. Che sia necessario farlo nei mari del nord a bordo delle navi di lusso, vabbè, ci può stare. Il problema è chi paga, perché se avessero pagato di tasca loro, vabbè, questi lavorano meglio. Qui al punto pare che siano soldi del sindacato. Ma stando certamente alla Guardia di Finanza, sono soldi del sindacato. Siccome il sindacato in Italia è un'organizzazione privata, privatistica, e quindi non è sottoposto alle norme che regolano invece il pubblico, il reato in questi casi non è il peculato, ma è la banale, chiamiamola così, appropriazione indebita, il cui termine di prescrizione, compresi gli atti interruttivi, cioè l'intervento della magistratura, per dirlo in termini molto così poveri, è al massimo di 7 anni e mezzo dalla data di consumazione del reato, non dalla data in cui è stato accertato. Quindi lei vuole che, per fatti accaduti nel 2010, adesso 2011 non ricordo 2010. Bene, non c'è neanche il processo di primo grado ancora. Poi ci sarà l'appello, poi ci sarà la Corte di Cassazione, e vuole che coi tempi della giustizia italiana tutto questo si chiuda entro le 7. È chiaro che stiamo parlando di una cosa che già... L'impunità è garantita dal punto di vista penale, l'impunità è garantita, però... Quello che mi ha colpito in questa vicenda è che quando l'ho letta sui giornali, per la verità senza particolare evidenza, ho pensato che trattandosi di esponenti sindacali, cioè che rappresentano le categorie più disagiate, i lavoratori, i pensionati, eccetera, eccetera, ci sarebbe stata una reazione. Invece non è successo niente. E allora il mio articolo era... centrato non tanto sulla minchiata, per usare il termine Barbagallo, che condivido pienamente, la minchiata fatta alla loro, ma sul fatto che l'assenza di reazione dimostra un po' quello che accennavate voi prima con una simpatica ironia. La diffusione del costume dell'illegalità in questo paese ha raggiunto un livello tale per cui la percezione dell'illegalità, non dico si è perduta, ma si è enormemente ridotta. E vale sempre il discorso che Crozza, la frase che Crozza attribuisce al mitico senatore Errati: fatti i cazzi tuoi, cioè, che ti occupi di questi, dei vecchi esatto. sindacali che si fanno la crociera con i soldi del sindacato. Ma abbiamo altri problemi in questo caso. No, esatto, è un po' così. E questa è la tristezza. Se effettivamente, Oscar, non si è vista grande reazione dopo che Repubblica ha denunciato questa cosa. Niente. Tanto è vero che Ayala concludeva il suo intervento, io mi piace dicendo, ma magari... proprio per combattere questa idea che la percezione si abbassa fuori della diffusione di questi comportamenti, dice: ma perché alla prossima riunione a Palazzo Chigi non c'è un politico che dica ai sindacati quel sindacato? No, guardate, voi per un po' non ci voglio sedere con chi di voi, segretario attuale, no? Con chi di voi ha fatto questa cosa, non ci voglio sedere. È vero Ayala che concludeva così il suo intervento? Sì, perché mi sono posto un problema da cittadino che... può tranquillamente affermare di averla sempre rispettato le regole, di conoscerle innanzitutto per motivi professionali, ma di averle anche sempre rispettate. Un po' mi indigno, usiamo questa parola tra virgolette, per cui dico: che si può fare dal mondo politico? Qual è il segnale? Perché da non più di questo può venire. Ma io, se fossi un membro del governo, rappresentante del governo, al prossimo incontro che ci sarà con i sindacati, direi: guardate, il governo non si siede con chi rappresenta un sindacato rispettabilissimo come la UIL, rispettabilissimo, che però è accusato di approvazione indebita, ma soprattutto a danno del sindacato, ma soprattutto ha offerto le giustificazioni che ricordano, come scrivono nell'articolo, il miglior Totò. Naturalmente questa gente non mi ci segue. Naturalmente però non avverrà, perché poi questo punto, ai occhi miei, solleva una delle tante volte in cui si solleva una questione, cioè noi, non avendo applicato l'articolo 39 della Costituzione su una legge che prescriveva i diritti e le garanzie da una parte, ma dall'altra anche i doveri del sindacato, quindi non c'è l'obbligo di un conto economico consolidato, non c'è l'obbligo di un conto patrimoniale consolidato, tutte le volte che i giornalisti ricostruiscono i soldi, i miliardi, sottolineo miliardi, sicuramente più di uno e io credo anche più di due, che vanno ogni anno in diverse forme tra CAF, patronati, diritti ai sindacati sul totale del monte pensioni, contributi pagati dagli italiani e così via, i sindacati dicono che non è vero, ma un conto patrimoniale ed economico non ce lo danno. E poi c'è anche chi dice che tutto sommato, proprio perché rimangono associazioni private i sindacati e quindi non c'è modo di appigliarsi in nome della loro funzione pubblica, che esiste e come, visto che i contratti sono erga omnes, per dire dovete rispondere anche dei soldi che raccogliete, e magari non ci sarà neanche l'incardinamento del processo, non solo per le prescrizioni di cui parla Ayala, ma in definitiva, se è un'associazione privata e non è la UIL a contestarglielo l'uso di quei soldi, perché mai dovrebbero essere poi processati? Cazzola, è un po' così? Ma io ho sentito con molta attenzione l'intervento del dottor Ayala. Io credo che ci sia questo elemento, che un'associazione privata si risponde innanzitutto, a meno che non ci sia stata una denuncia, si risponde innanzitutto agli organi e agli iscritti. Il fatto mi pare rilevante e anche un po' triste, anche un pochino squallido dal punto di vista, diciamo, dell'etimologia professionale, dal punto di vista, appunto, anche se vogliamo, dell'etica, anche perché, insomma, cinque amici con le famiglie, un viaggio se lo possono pagare, due viaggi, due crociere se ne possono pagare, senza per questo trovare una scusa, come hanno trovato loro. Insomma, gli stipendi dei sindacalisti non sono stipendi eccellenti, ma credo che la spesa di una crociera se la possono permettere. Ecco, mi pare che ci sia essenzialmente un problema di carattere etico, e trovo singolare, per esempio, che l'esecutivo si sia espresso all'unanimità in senso solidale con i dirigenti sindacali. Posso dire che è vero che la cosa non si è saputa, che è passato sotto silenzio, e io trovo che questa sia un po' un'eccezione, perché se pensiamo per esempio allo scandalo dei consiglieri regionali, nella mia regione per esempio si è fatto un gran putiferio rispetto a una persona, non mi ricordo più, c'era un consigliere o una consigliera che aveva messo in conto 50 centesimi per la toilette. C'è una distrazione sull'evento che non è abituale. Io direi che probabilmente ci sono stati degli interventi, perché, diciamo, sulle cose che fa la politica c'è una tensione, secondo me a volte anche un pochino esagerata. Tenga conto che ci sono stati state vicende ben più gravi di queste della Will, che addirittura sono passate sotto silenzio. Qui purtroppo noi ci dobbiamo fermare, non c'è spazio per Stefano da Roma. Vogliamo sentire solo in 7 secondi Angeletti come si è difeso? Allora era segretario della UIL a Radio Capital. È una cosa così banale, era un ritiro non francescano. No. Non francescano. Siamo andati in un posto dove non ci passavano solo pane e acqua. Non francescano. Non lo so, a me viene in mente il commento dato a Schettino da il comandante, invece: tornate a bordo, partite senza proprio risbarcare. No, sì, perché il problema è non rendersi conto, non dover neanche giustificare. È come quando apprendemmo, e io rimasi senza parole per mesi, il moltiplicarsi delle retribuzioni di Bonanni alla guida della CIS per aumentarsi la pensione retributiva, e non lo avrei mai immaginato da parte sua. Cioè sono cose cui ti cadono le braccia, appunto. Sì, anche perché poi ripeto, non è che sui giornali poi c'è stato un grande dibattito dopo questa vicenda finita così. Ringraziamo Giuseppe Ayala, grazie anche a Giuliano Cazzola, caro Oscar, insieme a Carmelo Lauricella in regia, a Lorenzo Nespoli e Elisabetta Fusconi. Ci troviamo domani. Domani oggi pomeriggio, per chi vuole, versione di Oscar, alle 4:30. Ovvio. E io pago! Aiuto! Io soffoco!